Se si cerca di afferrare, percependola come un oggetto esterno, la dimensione dell'essere che è nescenza e oscurità, si cade nell'illusione. Se sorge la cognizione dello stato unico ed inseparabile, si trasmigra nei tre dhatu, ovvero i tre regni del desiderio, della forma e del senza forma. Inoltre, riguardo all'illusorietà della cognizione della natura, anche i veicoli graduali sulle dottrine concettuali cadono nell'illusione della cognizione di teoria, meditazione e frutto. Le dottrine sull'annientamento hanno la cognizione che non esiste alcuna realtà fenomenica. Le dottrine sull'esistenza eterna hanno la cognizione di una realtà fenomenica immutabile. Gli Sravaka hanno la cognizione di una realtà fenomenica da afferrare. I Pratyeka Buddha hanno la cognizione della vacuità. Gli Yogacara hanno la cognizione che la saggezza innata è nella mente. I Madhyamika hanno la cognizione della non concettualità. Le dottrine del Tantra paterno hanno la cognizione di estasi e chiarezza come prana. Le dottrine del Tantra materno hanno la cognizione di estasi e vacuità come suggello. Le dottrine del metodo e della saggezza hanno la cognizione della non dualità. La Mahamudra ha la cognizione del trascendere la mente. Lo Dzogchen ha la cognizione del grande inizio. Così tutte queste cognizioni sono cognizioni che considerano la realtà come oggetto dei sensi e tutto ciò che è un oggetto di conoscenza non è la realtà stessa. Quando non vi è l'oggetto dei sensi, la mente non ha alcuna cognizione. La cognizione di qualsiasi concetto intrappola. Perciò questa nescenza e oscurità è detta dal vittorioso essere grande saggezza. La non conoscenza, priva di oggetto, rimuove l'illusione. Quando il pensiero abbandona il concetto di visione fenomenica, viene interamente recisa la corda del giudizio. Ed essendovi la conoscenza della non esistenza di un oggetto, per quale ragione? Il giudizio.